Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Buongiorno. Brutte notizie sempre. Non mi dica, io sono un po' come Jessica Rabbit, non è colpa mia che mi disegnano così. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei... Ho capito, perché anche a me dicono sempre che sono brutte notizie comunque. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Addio, le donne di cuore e di denari sono tornate insieme. Noi ci siamo telefonate al massimo per farci gli auguri. Neanche tanto. Qua. Qualche SMS. Ci siamo smessaggiate, ecco, per farci gli auguri di buon Natale e buon anno. Però adesso ce li possiamo fare di persona. Ripartiamo, buon anno, Nicoletta. Buon anno, Deborina. Io ti auguro proprio di iniziare il nuovo anno portando nel cuore tutte le cose belle e i sogni che ti hanno accompagnato sino ad ora, ma per trovare spazio per tante cose belle. Speriamo. L'augurio che facciamo naturalmente anche ai nostri ascoltatori è il caso di dire di tutto cuore. Esattamente, e anche magari se avessero qualche spicciolino in più nel portafoglio non farebbe male, lo sappiamo bene. Se per telefono ci si fanno ancora gli auguri di buone feste, tanti ne avrete fatti in questi giorni e ci si può anche dire addio, come canta Mina, c'è qualcosa che molto presto però non si potrà più fare, perché molto presto non sarà più possibile sottoscrivere telefonicamente dei contratti, quelli che ci vengono sottoposti in questo modo e che a volte ci prendono un po' alla sprovvista, no? Allora ne parleremo nella prima parte di Cuore e Denari. Subito mano alla cornetta, allora 800 24 00 24. Voi potete chiamarci perché è tutto gratuito, non avremo contratti da sottoporvi. Ma iniziate a raccontarci se vi è mai capitato di dire un sì un po' magari tirato al telefono che si è poi rivelato avere lo stesso significato di una firma, e raccontateci anche se questo lo avete capito dopo e quindi se vi siete pentiti. Mentre nella seconda parte del programma, Deborah, possiamo dirlo perché seguiremo un corso per aspiranti befane, sembra una battuta però voi conoscete un'altra simpatica vecchiettina che salta di tetto in tetto, vola su una scopa, scende dai camini, io direi che queste sono tutte prove di grande agilità e flessibilità. Allora 800 24 00 24, chiamate perché oggi insieme a voi vorrei proprio coltivare quel concetto di flessibilità che ci aiuta a stare bene nel corpo, ma ci aiuta a stare bene anche e soprattutto nella mente. Proveremo quindi a sciogliere le tensioni muscolari, articolari, a spazzare via quella sorta di ruggine che limita la piacevolezza del gesto e del movimento. Impareremo insomma ad ascoltare il nostro corpo per fargli ritrovare benessere. Non è difficile, sentite cosa vi dice il vostro collo, sciogliete le spalle o provate ad aprirle, scendete giù lungo la schiena e le gambe sino ai piedi e provate a risalire, e soprattutto cercate di capire se un cambio di posizione, provate ad alzarvi, a sedervi oppure a sistemarmi meglio nella sedia, provoca benessere o disagio. Mettete comunque subito alla prova l'agilità delle vostre ditine e componete il numero verde 800 24 00 24. Ti telefono no, fai volare le cantine. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Allora intanto Stefano da Udine che ci fa gli auguri per ieri. Facciamo finta di niente? No, ma io grazie. Ce li prendiamo? Io li prendo molto volentieri perché per me la Befana è un mito. Ottimo, molto bene. Accontenta i bambini. È agile. Ecco, ha qualche problema di denti, ma dai, quello noi non ci può avere tutto. Noi abbiamo un'ottima dentatura e quindi le faremo una puntata. Le facciamo una puntata di Cuore e Denari. Allora, ti telefono no, cantava Gianna Nannini. Meglio di no d'ora in poi. Almeno per quelle società che sceglievano il mezzo telefonico telefonico per invitare gentilmente i consumatori a sottoscrivere dei contratti. D'ora in poi non sarà più possibile. Allora, adesso vi spiegheremo perché, ma intanto vi chiediamo, vi sarà capitato di ricevere una di queste telefonate e forse anche di aver detto un sì proprio mentre la telefonata veniva registrata e accettare una proposta commerciale senza aver avuto troppo tempo per pensarci su? Diteci subito se vi è capitato, come vi siete comportati e semmai se vi siete pentiti dopo. 800 24 00 24 per i vostri interventi, ma se volete scriveteci anche su Facebook, su Twitter o al 349 238 6666. Di tutto questo parleremo intanto con il dottor Enrico Maria Cotugno, vice direttore della Direzione Tutela Consumatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Buongiorno dottor Cotugno e buon anno. Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. E buon anno anche ad un amico di cuore e denari, l'avvocato Francesco Luongo, vicepresidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori, avvocato. E buon anno. Ecco, soprattutto. Allora, dottor Cotugno, vengo subito a lei. D'ora in poi le società, poi cercheremo di capire quali, non potranno più proporre agli utenti, ai consumatori, di siglare contratti per via telefonica. Questa novità è sancita da una delibera che voi della GCOM avete pubblicato proprio il 23 dicembre scorso, quindi un bel regalo di Natale. Intanto ci spiega perché si è resa necessaria? Sì, in realtà questa disposizione è solo un'interpretazione di quello che invece è una decisione che ha preso il nostro legislatore, perché in realtà la regola vera la stabilisce il codice del consumo, così come è stato modificato nel recepire la direttiva sui diritti dei consumatori, la direttiva comunitaria. Quindi novità che ricordiamo sono entrate in vigore a partire dal giugno dello scorso anno. Esattamente, dalla metà del giugno dello scorso anno. In realtà noi ci siamo accorti che c'era bisogno di un'interpretazione proprio perché la particolare natura dei nostri contratti, quindi i contratti con i quali ci si abbona a un servizio telefonico, un servizio ADSL, necessitavano un chiarimento. Cosa dice il codice del consumo? Il nostro legislatore ha fatto una scelta coraggiosa perché in realtà non era obbligato a farlo, era una delle opzioni che la direttiva dava agli Stati membri, e ha fatto una scelta coraggiosa di dire: da oggi in poi in Italia i contratti telefonici non sono vincolanti per il consumatore se l'operatore non gli manda per iscritto la conferma dell'offerta, in modo che il consumatore possa leggersela con calma a casa, e poi se il consumatore non è vincolato finché non l'accetta sempre per iscritto. Cosa vuol dire per iscritto? Ovviamente con una lettera, con una firma di un contratto, ma anche, dice il codice del consumo, su un supporto durevole. E il codice chiarisce cos'è un supporto durevole: un CD, un floppy, ma anche un'email o un SMS. Quindi non questo, più diciamo una firma verbale e vocale, non basta più, ecco, registrata contatto durante una telefonata. Ecco, verba volant, scripta manent. Esatto. In sostanza, no? Allora questo, ecco, che è un'esigenza che il legislatore ha sentito per tutti i contratti, a maggior ragione vale per un settore come il nostro, dove le offerte commerciali sono complessissime. Allora al telefono è difficile con una telefonata spiegare a un consumatore che sta facendo un contratto a DSL a 20 mega, 30 mega, 100 mega, offerte combinate con i limiti, con un tetto massimo oltre il quale paga di più. Quindi obiettivamente, soprattutto nel nostro settore, è impossibile fare un contratto serio, consapevole al telefono. Appunto, proprio ancora più specificare per gli ascoltatori, è per quale motivo, se c'era già una disposizione di legge, l'autorità garante delle comunicazioni ha dovuto ancora rafforzare il messaggio. Mediamente ritengo che una norma sia più vincolante per un consumatore rispetto ad una direttiva della GCOM, dottor Cotugno, senza ovviamente sminuire vostro lavoro. Perché avete dovuto fare questa moral suasion, chiamiamola così, verso gli operatori soprattutto delle telecomunicazioni? Lei ha perfettamente ragione, la norma, la disposizione è quella del codice del consumo. Noi abbiamo semplicemente proposto, perché ricordiamolo, siamo ancora in fase di consultazione, delle linee guida per interpretare questa norma. E da dove è nata questa esigenza? proprio da un seminario che tenemmo a luglio a Roma, dove eravamo presenti noi, l'autorità dell'autorità antitrust e l'autorità dell'energia, con tutte le associazioni di consumatori, c'è anche il vicepresidente Luongo, e in quell'occasione ci accorgemmo che tutti quelli soggetti seduti al tavolo davano un'interpretazione diversa della disposizione, incluso il relatore del provvedimento, la senatrice che aveva fatto la relatrice per il decreto legislativo 21. Quindi in quell'occasione ci rendemmo conto, come autority pubbliche utilità, no, insieme all'energia dicevamo guarda, almeno nei nostri settori che sono strategici e che sono quelli che cubano milioni di contratti all'anno, mettiamoci d'accordo e cerchiamo di dare un'interpretazione univoca. Per cui ci siamo riuniti ad agosto con l'autorità per l'energia e abbiamo redatto insieme a quattro mani queste linee guida, che quindi troverete parallelamente presto pubblicate anche dall'energia, dall'autorità per l'energia. Questo anche per chiarire un po' tutte le tipologie di contratto che ci possono essere sottoposte da un operatore telefonico, che riguardano solamente non per esempio un nuovo contratto di telecomunicazioni, ma anche una nuova fornitura energetica e quant'altro. Abbiamo già un sacco di telefonate e tanti messaggi, Nicoletta. Sì, vogliamo dare subito il benvenuto a Cesare che ci chiama da Trieste. Volentieri. 800 24 00 24. Buongiorno Cesare, benvenuto. Buongiorno, credo che mi abbiate già risposto. La mia domanda me la sono fatta tanti anni fa, è quale sia la validità di un contratto che la controparte stipula con me, ma senza rilasciarmi nessuna copia, perché la registrazione della controparte ce l'ha, mentre io la registrazione non ce l'ho, e certo, quindi quella registrazione vale per una parte soltanto, il contratto vale tra due parti, non tra una parte soltanto. Mi pare che il legislatore però mi abbia risposto, sbaglio? Allora, sentiamo di nuovo Cotugno, poi magari supportiamo e rafforziamo il messaggio con l'avvocato Luongo. Certo, sì, no, il merito di questa disposizione è proprio questo, anche se non c'è la forma scritta ma c'è il supporto durevole, il concetto stesso di supporto durevole significa che deve essere un qualcosa stabilmente in mano al consumatore, quindi non può essere una semplice pagina del sito web, se quella pagina del sito web non è stabilmente nella disposizione del consumatore e non può essere modificata. Quindi è ovvio che il legislatore tiene conto anche dell'avanzamento della tecnologia, oggi sarebbe assurdo parlare solo di forma scritta. Infatti. Ma un'email va benissimo, un sms che mi rimanda a una pagina del sito che però è dedicata a me e quindi è stabilmente nella mia disposizione va altrettanto bene, ma non sarà più possibile fare questi contratti semplicemente al telefono verbalmente. Ecco, poi tra l'altro anche con le nuove procedure di accettazione dei contratti bisogna capire come funzionano i diritti di recesso, se rimangono valide le regole che erano già in vigore in precedenza. Perché dico questo? Perché c'è un ascoltatore che per esempio ci scrive: io ho detto sì ad un gestore telefonico che ha fatto questa proposta, poi le tariffe che mi ha applicato erano differenti rispetto a quanto promesso. Renzo ci racconta invece: un operatore telefonico ha estorto a mia madre, 84 anni, il passaggio da Telecom, per fortuna alla fine è stato economicamente valido, però per una persona di 84 anni effettivamente forse la parola estorcere è quasi quella corretta, direi, non vorrei essere un po' forte nella terminologia, però per qualche figura di utente, avvocato Luongo, effettivamente possiamo parlare un po' di contratti che vengono fatti sottoscrivere un po' forzando la mano, diciamo. Assolutamente, ecco. Sì, alle grandi liberalizzazioni dell'energia elettrica e prima della telefonia, di internet, quindi TV, sono seguite tantissime pratiche commerciali scorrette, tra cui appunto l'attivazione di servizi non richiesti, che è la vera piaga che vivono i consumatori, non solo italiani ma europei. Le nuove regole del codice del consumo, la Consumer Right Directory, che la direttiva che è stata fortemente voluta nella sua accettazione in Italia con il rafforzamento che sottolineava il dottor Cotugno, è un risultato grandioso delle associazioni dei consumatori che hanno seguito il recepimento di questa direttiva sin dalle commissioni parlamentari, possiamo dire di aver fatto per la prima volta lobby per i cittadini. e conseguentemente queste regole che sono state poi implementate e che sono in corso di implementazione da parte dell'autorità per le comunicazioni, dell'autorità per l'energia, sotto poi quella che sarà la supervisione dell'antitrust per quanto riguarda poi la verifica dei comportamenti eventualmente scorretti degli operatori, rappresenta un grandissimo risultato per i consumatori italiani che hanno una tutela identica e rafforzata rispetto a quelli di tutta l'Unione Europea. Adesso vorrei anche dare un po', come dire, l'ABC della telefonata commerciale che può arrivare a casa nostra. Perché può ancora arrivare. Altro che, ecco. Esatto, non è che poi appunto queste nuove disposizioni della GCOM dicono agli operatori non chiamate più, continuano a chiamare. Il tema è che possono fare delle proposte, farci delle proposte commerciali, e il tema è capire quando poi scatta il momento in cui, ecco, che arriva, come dire, la firma virtuale che noi apponiamo su questi contratti. Prima però di andare a questo, c'è qualche altro ascoltatore. Allora sì, ci sono, ci aspettano Emilia dalla provincia di Genova che vuole raccontarci un po' la sua storia, poi andiamo a Gianmarco dalla provincia di Roma e vorrei leggere anche un messaggio di Ilaria che ci racconta la sua esperienza. Allora Emilia, buongiorno a lei e benvenuta. Buongiorno. Dunque, circa un anno fa abbiamo aderito telefonicamente a un'offerta della società telefonica, dopodiché abbiamo visto che la DSL non funzionava in questa zona e abbiamo chiesto la rescissione del contratto entro i 10 giorni previsti. Dopodiché però, ripensando poi un paio di giorni dopo abbiamo avuto una richiesta ulteriore della registrazione dicendo che non era andata a buon fine la prima registrazione. Però poi richiamando hanno detto che la raccomandata era arrivata, che era stato annullato il contratto e tutto, ok. Circa 2 settimane dopo, esattamente un anno fa, l'8 gennaio, proviamo a usare il telefono e internet e non funzionavano più. Praticamente poi nel mese abbiamo capito cosa era successo. Vabbè, supponiamo che fosse successo questo: una società a cui si affidano queste società telefoniche, a cui viene data in appalto questa cosa qua, era subentrata e aveva richiesto lei la seconda registrazione, che invece noi pensavamo fosse stata veramente richiesta dai primi, la prima volta, e aveva praticamente fatto suo il contratto. Noi per 33 giorni non abbiamo avuto più né telefono né internet, con gravi danni a tutta la famiglia. Per quando uno dice non lasciare la strada certa per l'incerta, quando ti capitano queste cose qua, che rimani senza telefono, senza internet, oggi, eccetera, ti mangi oggi le mani. Ci sentiamo nudissimi, sì, peraltro. Ti senti nuda e anche un po' preso in giro, perché poi no? Emilia, quindi tantissime mandate a casa che non abbiamo pagato, e la questione si è risolta soltanto dopo diversi mesi. Tra l'altro perché le bollette nel frattempo arrivavano, con un responsabile. Perché Emilia, nel frattempo le bollette arrivavano, i responsabili non si sa dove siano, non si riesce a accedere a loro, e si parla solo con gli operatori, che poverini non hanno nessuna colpa e non hanno nessuna possibilità di scegliere o di capire. Grazie Emilia. Avvocato Luongo, quante di queste situazioni le associazioni dei consumatori conoscono e gestiscono ogni giorno? Ma tantissime. Il problema di fondo è che era in atto in Italia, e speriamo che questo provvedimento lo stoppi, soprattutto nel settore della telefonia, una sorta di fenomeno strano di smaterializzazione del contratto. Il problema della nostra, cioè, nel senso che a un certo punto non si sa più dov'è. E chi ce l'ha? Certo, e chi ce l'ha? E soprattutto, se c'è, la nostra ascoltatrice probabilmente, come tantissimi altri utenti, come può essere, come è capitato anche a me personalmente, non ha il contratto, quindi non sa a chi reclamare, e difatti le modifiche al codice del consumo mi impongono la indicazione di un ufficio reclami. Non conosce la tipologia del contratto, quanto dura, qual è l'offerta tariffaria. Voglio sottolineare poi che il provvedimento proposto dall'Agicom prevede anche un divieto di variazioni in peius delle clausole contrattuali, quindi delle tariffe per il consumatore, un aspetto molto importante che come associazione dei consumatori sosterremo. Basta con questi contratti finti all'infinito per quanto riguarda le offerte vantaggiose, e poi con un SMS ci si va a comunicare invece che c'è un aumento della tariffa che era stata promessa, tra virgolette, per sempre. Certo. Dottor Cotugno, un caso come quello di Emilia, alla luce della vostra nuova disposizione, potrebbe più verificarsi? Ma direi, mi auguro di no, nel senso che a questo punto ci sarà sempre bisogno di una conferma successiva da parte dell'utente, quindi nel caso della nostra ascoltatrice lei avrebbe dovuto comunque ricevere una conferma dell'offerta anche a valle della seconda telefonata e avrebbe a sua volta dovuto rispondere dicendo accetto l'offerta, quindi sicuramente sarà molto più difficile. Ma su questo punto vorrei dire che probabilmente sulla telefonia fissa il problema vero lo risolveremo, perché ad oggi noi la maggior parte delle segnalazioni che registriamo non sono per servizi non richiesti, ma sono appunto telefonate un po' così, come dire, ingannevoli, nelle quali l'utente magari pensa solo di aver richiesto delle informazioni poi perché si aspetta il contratto a casa e invece poi si trova abbonato a un nuovo operatore, perché il consumatore medio ha ancora l'idea che per fare un contratto ci voglia un foglio di carta con una firma, cosa che non è, nel senso che i contratti per una forma scritta sono solo quelli previsti dalla legge, quindi io posso fare qualsiasi cosa, a meno che non è prevista la forma scritta dalla legge, con un contratto telefonico. Quindi grazie a questa disposizione riusciamo a ovviare a questo comune sentire errato. Senta, siccome le vostre disposizioni sono fino ad un certo punto, no, vincolanti, come dicevo prima, sono una sorta di moral suasion, esatto, per gli operatori telefonici, chi invece dovesse non adeguarsi e dovesse continuare a comportarsi in maniera non chiara, non trasparente, già le authority, quella garante del mercato, la vostra, multano moltissimo le società che non si comportano correttamente, però nonostante questo abbiamo visto che certi comportamenti perseverano, no? Ancora tra i consumatori. Voi che cosa farete? Come monitorerete questa situazione? Poi peraltro volevo anche chiederle, magari lo facciamo nella seconda parte della trasmissione, come si sta svolgendo questa consultazione pubblica di cui ci ha parlato prima. Andiamo però alle sanzioni per chi non fa il suo dovere. Allora, in questo caso, lo diceva anche prima il vicepresidente Lungo, la competenza a sanzionare le violazioni del codice è dell'antitrust, sì, con la quale noi stiamo per siglare un protocollo d'intesa e quindi noi abbiamo un sistema di monitoraggio davvero eccellente, nel senso che riceviamo migliaia di segnalazioni all'anno, abbiamo un ufficio che si occupa esclusivamente di monitorare, di raccogliere le segnalazioni, di metterle insieme e poi di fare delle ispezioni, di fare delle verifiche. Avete anche Corecom a livello regionale, esatto. Ottimo, era quello che volevo dirle. Poi dal punto di vista della tutela sostanziale, perché poi parliamoci chiaro, la sanzione va alle casse dello Stato, ma non risolve il problema della signora che ci ha chiamato prima. Il problema della signora che ci ha chiamato prima, il disagio che ha subito, lo vedrà compensato grazie ai Corecom, che sono i nostri comitati regionali per le comunicazioni, ai quali abbiamo delegato la funzione di svolgere sul territorio la conciliazione. Quindi se la signora si rivolgesse al Corecom o si fosse all'epoca rivolta al Corecom, avrebbe potuto chiedere in via conciliativa un indennizzo, quindi una somma di denaro che abbiamo stabilito noi con un nostro regolamento per ogni fattispecie, e in questo caso, trattandosi di interruzione del servizio, avrebbe ricevuto 10 euro al giorno per ogni giorno di interruzione. Però sì, adesso è tardi, però. Adesso non è tardi. Non è mai troppo tardi. E poi avrebbe potuto addirittura chiedere in via d'urgenza un provvedimento temporaneo entro 10 giorni con il quale il Corecom avrebbe obbligato gli operatori a ripristinare immediatamente il servizio. Certo. Quindi è bene dirlo queste cose. È bene dirlo che bisogna sentire cuore denari e chiamare, perché un aiuto arriva sempre. Però insomma, per ogni grana con l'operatore telefonico a livello regionale ci sono, a livello provinciale, perché credo ce ne sia uno per ogni provincia, dottor Cotugno, c'è il Corecom, i comitati regionali di controllo, o forse ce n'è uno per ogni capoluogo di regione? Sono sicuramente in ogni capoluogo di regione, nelle regioni più grandi i Corecom si sono strutturati anche a livello provinciale. E quindi insomma impariamo anche a tutelarci con queste strutture, organismi. E poi io vorrei imparare anche a rispondere, perché metti che mi arrivi una proposta telefonica, ecco. Due letterine, grazie. Allora, abbiamo Ilaria che ci racconta come, che cosa ha fatto fatto, e vorrei chiedere naturalmente ai nostri esperti che cosa avrebbe magari dovuto fare. Le hanno proposto una variazione al contratto telefonico via cellulare. Lei ha chiesto, prima di accettare telefonicamente, di vedere le modalità di recessione. Mi hanno detto che l'attivazione era fatta da 3 step: uno telefonico, poi la firma, poi l'attivazione con invio email. In realtà la prima accettazione telefonica stipulavi il contratto. E quindi poi per recedere dovevi mandare una raccomandata entro 30 giorni. Questo ci scrive Ilaria, e poi ha continuato a mandarci dei messaggi in cui diceva che appunto aveva anche difficoltà, perché naturalmente lei è a Roma e il tribunale di competenza per le controversie invece era a Napoli. Allora, in questo caso Ilaria che cosa avrebbe dovuto fare? Con chi, a chi chiediamo? Magari. All'avvocato Luongo, vorrei sentire. Allora, innanzitutto bisogna capire se la Ilaria ha avuto o meno effettivamente queste informazioni, perché se le ha avute conosceva le condizioni contrattuali, se si tratta di consumatore, non di impresa, il foro del consumatore era quello di Roma, quindi non ci sarebbe stato nessun problema, ma avrebbe chiaramente dovuto far valere questo suo diritto in sede di conciliazione. È importante capire se poi l'operatore aveva dato tutte le informazioni legate e aveva espresso chiaramente che la telefonata in realtà era una vera e propria offerta commerciale che comportava la adesione a un contratto, l'adesione che doveva essere registrata, e comunque era necessario inviare le informazioni obbligatorie con il nuovo provvedimento dell'authority in discussione, lo saranno ancora di più, perché da quelle che scatta il diritto di recesso, che voglio ricordare da 10 giorni è stato portato a 14 giorni dal giugno dello scorso anno, per cui quando io ho le informazioni sono in grado di avere contezza effettivamente del contenuto dell'offerta commerciale a cui mi chiedono di aderire, e quindi posso farlo meno con cognizione di causa, sempre ricordandoci che abbiamo 14 giorni per recedere dal contratto senza alcuna spesa. Ottimo. Cuore e denari. Test the smile, baby. 1, 2, 3, test the spalla, baby. 1, 2, 3, test the spalla, baby. Lo sai che anche in analisi tecnica per descrivere il movimento dei prezzi dei titoli si usa il test testa spalla? Vedi? Siamo unite. Adesso sempre. Mi è venuto in mente, così ho avuto questo flash. Proviamo a farlo anche noi, testa spalla. Morbidi, flessibili, sciolti, proprio come la Befana. Lei sì, Deborah, l'abbiamo detto, lei sì che sa mantenersi in forma. E voi come vi sentite? Provate a pensarci e chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24, perché spesso non ci accorgiamo di essere tesi e contratti, ce ne rendiamo conto a volte quasi per caso, magari facendo movimenti semplici, raccogliere la matita che ci è caduta dalla scrivania. A volte la mancanza di flessibilità non dipende solo dagli anni, ma può essere anche la spia di blocchi e tensioni emotive. C'è un modo di essere che condiziona anche e soprattutto il nostro modo di stare. Un esempio classico, bene, è quella sensazione di dolore mista pesantezza che avvertiamo tra capo e collo, che potrebbe essere considerata, se vi può piacere, il cotè fisico di quella che viene chiamata malattia d'Atlante, dal nome del gigante che Giove condannò a reggere il mondo sulle spalle. Insomma, le preoccupazioni che ci pesano. 800 24 00 24, allora raccontateci che cosa vi pesa, che cosa vi blocca, che cosa limita la vostra agilità, la vostra flessibilità nel corpo e anche nella mente. Sono gli anni, la mancanza di attività fisica o l'eccesso di attività fisica, le posture viziate, le responsabilità, le preoccupazioni, l'insicurezza, la paura del domani? Ne parleremo tra poco con la dottoressa Laura Bertelè, fisiatra e autrice di Ascolta il tuo corpo. Ascoltate il vostro corpo e chiamateci 800 24 00 24. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Non occupatemi il telefono, lo potremmo dire anche a quelle compagnie che fino a poco tempo fa ci chiamavano, almeno fino al 23 dicembre, proponendoci di sottoscrivere con la registrazione della nostra voce un contratto, un'offerta, una promozione. Questa è la novità di cui stiamo parlando questa mattina nella pagina di Denari all'800240024. Intanto voi ci state chiamando liberamente perché il numero verde è gratuito, non vi facciamo sottoscrivere nessun contratto, anzi vi diamo la possibilità di risolvere i vostri dubbi sul tema di questa mattina, perché magari ad una di quelle telefonate vi è capitato di rispondere e di registrare un assenso nei mesi scorsi, più o meno consapevolmente. Magari, insomma, ammettiamo che diciamo quasi sempre sì, perché è chiaro che ci fanno una proposta che è sempre allettante, no? Il tema grosso è, dottor... Poi dici forse anche sì per sfinimento, non capisci tutto. Ma sì, alla fine ci ricordiamo anche che dietro a questi call center ci lavorano tantissimi ragazzi che magari costruiscono un intero stipendio sulla base dei contratti che riescono a vendere, per cui qualche volta ci muove un po' anche la sensibilità. Il cuore. Brava, attorno a questo problema. Detto questo, adesso, come dire, se diciamo sì ad un contratto, questo contratto dovrà in qualche maniera, prima di essere definitivamente operativo, dottor Cotugni, arrivarci anche sotto forma di dispositivo, com'è che l'abbiamo chiamato prima? In forma scritta, almeno su supporto durevole. Supporto durevole. Ecco, no, dispositivo durevole mi veniva. Quindi ci deve arrivare o il contratto. Chi lo dice, tra l'altro? Devo stabilirlo io qual è la modalità che preferisco, se voglio il cartaceo, se mi basta la mail, se mi basta l'SMS. Però ci deve essere una risposta in cui la società dice: ti ho fatto sottoscrivere questa proposta e le condizioni sono queste. Esattamente. Per ricorrere al supporto durevole ci vuole il previo consenso dell'utente, quindi nella prima telefonata l'utente dovrà dire: guarda, mandamele via email, mandamele via SMS, mandamele. Allora, bene, speriamo, insomma, magari fra qualche mese, Nicoletta, rifaremo un punto della situazione per vedere se è cambiato qualche cosa, se i rapporti tra società e consumatori sono più chiari. Sempre con l'avvocato Luongo e il dottor Cotugno. Certamente. Quindi preparatevi, state allerta. Esatto. Allora, chi sentiamo adesso? Gianmarco, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza, in quanto un paio di mesi fa vengo contattato da una nota compagnia telefonica per passare a loro con la DSL. Fanno una proposta che valuto vantaggiosa, ma l'operatore chiede espressamente l'invio del contratto cartaceo. Mi assicura che la loro era solamente una proposta. Mi fido di ciò, in quanto la numerazione mi risultava provenire da una sede principale del capoluogo di provincia in cui abito, e quindi procedo alla registrazione. L'operatore però mi chiede espressamente di non variare la registrazione e di rispondere solamente alle domande. Faccio la registrazione, in cui si usa il termine di proposta, e quindi attendo l'arrivo del modem e del contratto. Mi arriva il modem senza contratto. A questo punto io chiamo l'unico numero che ho a disposizione, anche perché queste numerazioni sono comunque, non danno la possibilità di ricontattarle direttamente. Esatto. E quindi chiamo il call center, che mi fa scoprire che in realtà io avevo diritto a un vero contratto con la registrazione. Ovviamente io non avevo da parte mia registrata la parte in cui... Infatti. Lei non ha la prova di tutto quello che è successo, pur essendone pienamente consapevole, però avrebbe voluto anche la sua parte di documenti. Oltretutto non mi hanno dato la possibilità di avere un referente, perché loro erano solo al servizio del pubblico, davano informazione e quant'altro. Alla fine, poi esausto, rimanendo la convinzione di essere stato forzato a quel contratto, ma essendo la proposta vantaggiosa, sono rimasto a quella compagnia, ma sempre con questa. Però insomma, ecco, allora diciamo che teoricamente, da quello che abbiamo capito d'ora in avanti, questo non dovrebbe più accadere, avvocato Luongo, no? Ma voi come associazione dei consumatori che cosa suggerite ai consumatori finali che ricevono queste proposte, le ascoltano bene e le accettano? Qual è il supporto durevole che voi preferireste che riceviamo, in sostanza? Basta l'SMS? Ma guarda, dipende. Per la persona più anziana sicuramente consiglieremo e consigliamo sempre di chiedere il modulo cartaceo e di inviare l'accettazione con la firma cartacea. Per le persone di cui verifichiamo una maggiore competenza, quantomeno nell'utilizzo del PC e della email, tranquillamente anche le mail, in questo caso il contratto arriva in allegato. Voglio ricordare che nel caso dell'ascoltatore il contratto è evidentemente nullo, qualora lo volesse far valere, naturalmente è un suo diritto, ma può anche rimanere nel contratto, che così si perfeziona con il suo comportamento. Ma voglio anche ricordare che l'operatore è obbligato a comunicarci le modalità di recesso. Qualora questo non avvenga, i termini non sono più di 14 giorni, ma sono di 90 giorni dall'attivazione del servizio. Quindi abbiamo ben 3 mesi per recedere, ripeto, senza alcuna spesa. Un buon assist, avvocato, la interrompo brutalmente perché è un assist, c'è Vito. Esatto, perfetto su questo tema. Vito, buongiorno. Ciao, buongiorno, senta, io sono un imprenditore individuale, però pensavo che la mia esperienza poteva essere utile. Praticamente mi contattano, mi fanno la proposta, mi fanno, io la valuto vantaggiosa, dico ok, mi arriva il contratto, perfetto, lo firmo, glielo invio di nuovo via email, tutto a posto, mi dicono come devo recedere, perfetto. Ora il problema è che poi cosa è successo? Due cose. Uno, le aspettative erano più rose, me l'hanno descritte più rose del reale e ho detto mi sa che devo disdire. E poi mi avevano promesso 2 mesi gratuiti di servizio all'inizio che non mi sono stati dati. E qua c'è un'inadempienza. Quando ho deciso di disdire il contratto, non sono mai più riuscito a contattarli né via telefono né via email né a mandare la raccomandata. Allora cosa ho fatto? Siccome all'inizio di questo periodo contrattuale, praticamente il giorno stesso in cui io non ho effettuato il pagamento credendo di avere questi 2 mesi gratuiti, mi hanno subito contattato dicendo guarda che devi pagare, io cosa ho fatto recentemente? Sono andato dal direttore della mia banca e gli ho detto blocca il pagamento, vedrai che appena non vedono i soldi mi contattano. E sto aspettando per vedere se questo è effettivamente l'unico modo per contattarli, perché allora, non sono riuscito in nessun altro modo. Grazie Vito, stiamo andando verso la conclusione di questa parte di Denari, commentiamo subito gli aspetti principali, diciamo, della sua vicenda. Intanto, dottor Cutugno, c'erano palesemente, mi sembra, delle condizioni proposte che non sono poi state rispettate, quindi società inadempiente. In questo caso il diritto di recesso funziona diversamente rispetto ai 14 giorni che abbiamo indicato prima, perché magari Vito si è accorto un po' più tardi, no, che la società che ha promesso 2 mesi gratuiti non rispettava questi 2 mesi, per cui può recedere dopo? Beh, in quel caso, se ci sono i presupposti, può risolvere il contratto per inadempimento, nel senso che se, però va verificato se effettivamente le condizioni fossero quelle o se quelle proposte al telefono poi erano diverse da quelle scritte. Ecco perché l'importanza di avere poi il documento scritto e leggerlo per bene. Certo. Però rispetto a quello che ha fatto il nostro ascoltatore, io vorrei dare un warning ai nostri ascoltatori. Attenzione, perché sospendendo i pagamenti si va incontro poi alla sospensione del servizio. Quindi cosa dicono le nostre disposizioni? Che l'utente può sospendere i pagamenti solo di quelle parti della bolletta che lui contesta. Certo. Quindi è fondamentale prima contestare e poi, se del caso, sospendere il pagamento fino alla risoluzione della controversia. Però sospendere. Concludiamo allora con 2 messaggi. Intanto, dottor Cutugno, magari cominciamo anche a fare qualche iniziativa nei confronti degli operatori nel momento in cui ci vogliono tempestare di telefonate per farci delle proposte commerciali, non si sa com'è, sono tutti molto attivi. Quando li cerchiamo noi invece per contestare, per insomma cercare delle figure di riferimento che ci diano delle risposte veloci, è sempre un'impresa, no Nicoletta? Assolutamente. Impossibile. Mission impossible, ardua, ci mettono lì in attesa, le telefonate non finiscono più. Quindi altro campo di intervento che ritengo sia molto importante. Il signore che voleva sospendere il pagamento, attenzione a finire nella rete dei morosi, perché ci sono delle novità anche su questo oggi, di cui parleremo prossimamente, senz'altro. Intanto grazie al dottor Cutugno, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto. Grazie all'avvocato Francesco Luongo. A voi un saluto agli ascoltatori. A presto. Che si fa adesso? Si va a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Intanto provate ad ascoltare, oltre che le informazioni sul traffico, le informazioni che vi manda il vostro corpo. Tra poco lo rimettiamo assolutamente in forma. e denari. I giunchi della palude sono verdi e si piegano al vento. Vidi una donna che là camminava al finire del giorno. Sull'acqua bruna della palude galleggiano i bianchi boccioli di loto. Io la scorsi in piedi sulla sponda al cader della notte. Tutta la notte rimango desto e non posso trovar sonno. Flessibile mi riappare come un semplice giunco nel vento. Chiudo gli occhi e rivedo la bianchezza della sua gola. Sull'acqua nera della notte il lune galleggiar come fiore di loto. I giunchi della palude, anonimo cinese. E sì, con i versi di un anonimo cinese letti da Alessandra De Luca, splendida voce di Radio 24, sì. Diamo inizio alla seconda parte della trasmissione in cui, come anticipato, parleremo di flessibilità. È una dote che regala armonia e senso di movimento, quiete e bellezza. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Laura Bertelé, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, è autrice di un libro che mi è piaciuto molto, che abbiamo citato tante volte e che io riprendo più volte nella lettura, che si intitola Ascolta e guarisci il tuo corpo, Mondadori. Buongiorno dottoressa Bertelé, bentornata. Buongiorno a voi, a tutti. Buongiorno e buon anno. Allora, si stanno già preparando, dottoressa, i nostri ascoltatori. Sono già pronti Antonio da Salerno, Manuele da Massa Carrara. Chiediamo a loro di attenderci, ma intanto diciamo bene avete fatto a chiamarci, perché con la dottoressa Bertelé oggi proveremo a capire se la rigidità che avvertiamo a livello dei nostri muscoli, articolazioni, è frutto di cattive posture, delle molte primavere, del nostro modo invece di affrontare la vita. E soprattutto la dottoressa Bertelé ci dirà che cosa fare per riprendere, no, l'armonia, l'equilibrio, che sono proprio quelle approcci o anche un modo di approcciare la vita, ed è quello che ci serve per affrontare il nuovo anno. Dottoressa. Sì, direi che la cosa importante è proprio l'elasticità, in quanto l'elasticità è un discorso di tipo fisico, ma anche un'attitudine, come noi affrontiamo gli imprevisti, come noi affrontiamo gli altri. Ed è veramente molto importante non essere rigidi. La rigidità è sempre segno di malattia, di patologia e di sofferenza. Nelle relazioni come nei movimenti. Nell'accettare le cose nuove, nell'accettare le sfide, come nel praticare uno sport, che uno si dice, guarda com'è rigido. Non è... Esatto. È proprio così. Allora, intanto dottoressa Bertelé, lei ci aiuta magari a capire se il problema può risiedere nel muscolo, nell'articolazione, o invece se è la conseguenza di un'emozione soffocata, di una tensione. Abbiamo parlato della sindrome di Atlante, ci sono delle persone che sentono proprio tutto il peso della vita, delle responsabilità, e avvertono quella tensione a livello del collo e delle spalle. Ecco, ci sono effettivamente dei problemi che possono essere di tipo articolare, e quindi quando sono articolari sentiamo una rigidità fissa, molto rigida e meccanica. Quando invece è una situazione più di tipo muscolare, sì, molto spesso nasconde delle problematiche di tipo emotivo, è più elastica la rigidità. Possiamo anche dare qualche suggerimento ai nostri ascoltatori per vedere, per testare un po' la loro elasticità. Sì. Ecco, ad esempio, un modo molto concreto è di sedersi ben eretti. Deborah ride perché guarda come sono seduta. Sia proprio un esempio oggi. Bene, razzolo, non male, malissimo. Io ho le gambe incrociate sotto il tavolo. Quindi ci sediamo. Ecco, ben dritti, ben con dritti. I piedi appoggiati per terra. E ruotiamo la testa all'indietro e cerchiamo di vedere fino a dove vediamo con gli occhi, cioè fissiamo un punto, prendiamo un punto di riferimento dietro di noi, fin dove arriviamo con gli occhi, da una parte e dall'altra. Questo è un test che poi possiamo ripetere nel tempo per vedere se la nostra elasticità cervicale migliora o peggiora. Una cosa interessante è anche fare questo test, cioè la rotazione del capo e vedere fin dove si riesce ad arrivare con lo sguardo, a bocca aperta e a bocca chiusa, e ci scopriremo che a volte alcuni di noi a bocca chiusa, cioè tenendo i denti a contatto, guarda molto meno, cioè lo sguardo va molto meno all'indietro, perché vuol dire che allora l'occlusione sta incidendo in maniera negativa sulla nostra elasticità cervicale. Quindi questo per il collo. Questo per il collo. Possiamo scendere? Sì. Ecco, intanto poi chiediamo ad Antonio e a Manuele, che sono in linea con noi, se hanno fatto il test, se, di fare anche loro questo test, se possono farlo naturalmente. Dottoressa Bertelè, quindi scendiamo dal collo. Scendiamo, ad esempio per la schiena un esercizio è quello di tenere le gambe un pochino aperte, cioè l'apertura dei piedi uguale più o meno a quella delle anche, sì, e flettersi in avanti lentamente con le ginocchia lievemente flesse in modo di non avere un risentimento a livello lombare, e vediamo fin dove arriviamo con le dita, la punta delle mani, cioè riusciamo a arrivare a toccarci i piedi. Dottoressa, aspetti che Nicoletta mi è scomparsa quello sotto il tavolo, un attimo, la ritiriamo su. Quello sì, sul... Ecco. Questa distanza della punta delle dita al pavimento è un indice più o meno della elasticità della muscolatura posteriore. Grossolano ma abbastanza attendibile. Quindi siamo giunchi o siamo tronchi, potremmo dire. Esatto. Siamo canne o siamo querce, come tipo di discorso. Canne o querce. L'altra cosa, ecco, per le braccia, per gli arti superiori, che chiaramente sono molto sollecitati nella nostra vita, ci sono gli esercizi classici di vedere se riusciamo ad arrivare in alto, cioè partendo dal davanti fino sopra la testa, o lateralmente sempre sopra la testa. Oppure possiamo fare anche degli esercizi di disegnare dei cerchi, immaginare di avere delle matite infilate nelle spalle, disegnare dei cerchi sul soffitto, sulle pareti laterali, in modo di anche sciogliere. Questo è un test ed è già una terapia. Che spettacolo. Certo che tirano, un po'. Caspita. Vero? Le spalle nostre sono sempre molto cariche, e come diceva prima. È vero, le spalle sono carichissime, molto cariche. Antonio, buongiorno da Salerno. Buongiorno. Lei ha fatto qualche esercizio? Riesce a vedere girando il collo con la bocca? Sì, ma per la coscia, a dire la verità. Ah, la coscia, Antonio. Noi siamo scesi, siamo arrivati anche alla coscia. L'abbiamo superata forse, dottoressa Bertelè. Antonio ha un problema alla coscia, ma quali sono le indicazioni utili per lei che deve avere da Antonio? Ecco, dovrebbe dirmi che cosa succede a questa coscia, cioè se gli fa male, che tipo di problema ha? Ho avuto dei crampi al principio, poi dopo si è irrigidita la coscia, la parte anteriore dei muscoli, e non riesco a camminare. Sì. Adesso ho fatto un po' l'esercizio che che la dottoressa Bertelè ha suggerito, ma non si è sbloccato. Non si è sbloccato. E comunque... Nella parte a principio, quando ho fatto eretto con le gambe erette, ha fatto male, poi dopo un po' flesso ho ritrovato e senza dolore. Ecco perché, dottore, però si irrigidisce il muscolo quando sto fermo, per esempio. Allora, un muscolo che sembra amare il movimento, è perché vero, con il movimento si rilassa un po'. Dottoressa Bertelè, lei ha detto che nella rigidità muscolare c'è spesso anche dietro un problema anche emotivo, non penso per la coscia di Antonio. Sì, spesso c'è, poi molto spesso ci sono delle problematiche di tipo posturale, cioè che tipo di uso fa la persona del proprio corpo e negli anni anche che tipo di uso ha fatto, cioè si è fatto molti sforzi, si è fatto lavori pesanti. Sicuramente, da quello che dice l'ascoltatore, è molto importante che allenti la tensione della muscolatura posteriore della coscia, quindi l'esercizio molto semplice che ho dato prima può essere di grande aiuto se lo fa tutti i giorni, anche più volte al giorno, molto molto lentamente con le ginocchia piegate e soprattutto ricordandosi di respirare mentre lo fa, cioè di espirare soprattutto mentre lo fa, perché quando si espira la muscolatura si rilassa di più. Non è facile guardare in faccia la trasformazione, è il mio corpo che cambia, la forma del colore. E lo abbiamo anticipato, il nostro modo di essere condiziona anche il modo di stare, il corpo cambia posizione, cambia forma, e in questa trasformazione hanno un ruolo anche le emozioni e i sentimenti, che nel corpo hanno una loro vita, tanto che per effetto di una loro inibizione si possono verificare quelle tensioni che ci allontanano dalla condizione di benessere. Ma dottoressa Bertelè, noi abbiamo uno straordinario indicatore del nostro benessere fisico, psichico ed emotivo, che è il respiro. Lo possiamo utilizzare certo, anche per questo? Sicuramente, in quanto quasi tutti, diciamo tutti nella nostra società, abbiamo un respiro tendenzialmente bloccato. Nella nostra civiltà occidentale abbiamo soprattutto un respiro bloccato in ispirazione. Ci dimentichiamo di respirare, ci dimentichiamo paradossalmente di espirare. Ecco, quello che consiglierei e che consiglio a me stessa è proprio di ogni tanto ricordarsi di buttare fuori l'aria, come se noi lasciassimo cadere dei pesi, come proprio se ci lasciassimo andare, perché siamo tutti in un blocco di tipo diaframmatico, cioè di tenuta. Ecco, ricordiamoci di espirare, cantiamo, anche quando siamo soli, anche se siamo stonati, non importa, l'importante è proprio fare in modo di far uscire l'aria, perché è solo così che la muscolatura si rilascia. Ecco, perché proprio il respiro allenta le tensioni, scioglie i muscoli contratti e quindi restituisce benessere. Tante volte noi, quando guardiamo ad esempio la persona davanti a noi che sta respirando, ci accorgiamo che respira tutto in alto, dottoressa Bertelè. Cioè, sì, ecco, no... questo blocco del torace molto in inspirazione, che è così frequente, è dovuto proprio al fatto che ci dimentichiamo che possiamo anche espirare ogni tanto. Il respiro è proprio il dare e l'avere. Noi siamo in una società in cui tendiamo a prendere, a prendere, a prendere, perché siamo sempre di corsa, perché non possiamo... E quindi regola numero uno, proviamo a respirare, contattate il nostro numero verde, GR, torniamo subito dopo. Cuore e denari. Che hai fatto? Sembri una giraffa con la scoliosi. È divertente, ho un brutto torcicollo. Proprio oggi che De Marinis mi aveva incaricato di incontrare un cliente. È colpa dei riscaldamenti. Lo so, in macchina, ma lo tieni sempre troppo alto. Te l'ho sempre detto io. No, è che lo tengono troppo basso fuori, poi io mi prendo i colpi di freddo. Ti faccio una manipolazione. Semplice gesto, sbloccherò il tuo collo. Me lo faceva mia moglie quando eravamo fidanzati. Vai giù, vai giù. Luca, sai quello che fai? Sì, sì, sì. Tu devi rilassarti. Ti rilassi, sei rilassato? Sei rilassato? Ma ti volevo morto tua moglie prima di sposarti! Rilassati, rilassati. Fatto, fatto. Rilassiamoci anche noi, abbiamo lavorato un po' sul respiro, un'indicazione della nostra flessibilità muscolare, articolare e anche emotiva. Oggi in linea con noi la dottoressa Laura Bertelè, autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo. Parola d'ordine della seconda parte di Cuore Denari è flessibilità, è una dote, una condizione, un modo di essere, di stare nel corpo, nella mente, nella vita, nelle relazioni. Allora la domandona di oggi è: vi sentite più querce o bambù? Non fraintendetemi, naturalmente l'abbiamo già anticipato con la dottoressa Bertelè. Quante volte avete sentito dire forti come una quercia, ma anche rigidi come un tronco, flessibili come una canna di bambù, ma anche fragili come un fuscello? Vi propongo oggi questa riflessione a voce alta, perché mi sono resa conto che nel concetto di rigidità e flessibilità ci sono molte opportunità, ma anche tanti, tantissimi vincoli al nostro star bene e al nostro benessere. Allora oggi voglio proprio indagare cosa ci succede in caso di eccesso di rigidità, ma allo stesso tempo come si fa a coltivare quella flessibilità che ci aiuta a stare bene nel corpo e nella mente. Dottoressa Bertelè, ci insegni ad ascoltare il corpo. Di solito ce ne lamentiamo e ci fermiamo lì per dire: mi fa male qui, non riesco a muovere bene il braccio, mi sento la spalla un po' arrugginita, ho le gambe che non mi seguono. Ma bisogna fare un passo in avanti. Che cosa bisogna sapere? Che cosa bisogna sapere ascoltare soprattutto? Soprattutto, ecco, bisogna ascoltare, nel senso che effettivamente noi ci rendiamo conto che abbiamo un corpo quando fa male, lo usiamo senza renderci conto che molto spesso lo strapazziamo. Invece è veramente molto importante metterci in ascolto. Il corpo è veramente più intelligente della mente, in quanto ci conduce attraverso le sensazioni, attraverso i dolori, verso le situazioni, le persone con cui stiamo bene. Ascoltiamo come stiamo quando siamo con una persona. Abbiamo tensione, sentiamo che le spalle si irrigidiscono, oppure siamo rilassati, ci sentiamo a nostro agio, respiriamo liberamente, sentiamo che i piedi si irrigidiscono. Ecco, facciamo molta attenzione a quello che il corpo ci dice in ogni momento della giornata e capiremo, ci condurrà verso il nostro benessere. Quindi qualsiasi parte del nostro corpo può dirci qualche cosa. L'importante è essere proprio in ascolto e sentire i messaggi che ci manda il corpo, lasciare uno spazio perché il corpo ci mandi dei messaggi durante il giorno. E tanti messaggi a proposito, esatto, stanno arrivando al 349-238-6666. Sorridiamo perché è molto carino quello che ci arriva da parte di un ascoltatore o ascoltatrice, non sappiamo, ma in ogni caso, cara Nicoletta scrive: quando mi arrivano le bollette da pagare, specie quelle invernali, mi si irrigidiscono tutti i muscoli, mi manca il respiro, faccio alcune flessioni sul portafoglio, poi mi sento più leggero, quindi un ascoltatore specialmente nel conto corrente. Buon inizio anno a tutta la redazione. Allora, noi andiamo a Manuele che ci chiama da Massa Carrara. Intanto a voi chiediamo di raccontarci all'800240024 il punto o i punti in cui vi sentite rigidi, la situazione o il momento in cui verificate questa sensazione, magari dopo il riposo, dopo l'attività fisica, durante o dopo delle posizioni mantenute per tempi protratti. Manuele, buongiorno. Buongiorno. La Toscana auguri. Oggi la fa auguri da padrone. Anche voi. Come si sente? È un bambù, una quercia, un tronco? Ma io mi sento un po' un bambù e un po' una quercia, perché ogni tanto qualche crack, diciamo che lo sento. E beh, normale. Ma il suo punto debole, Manuele? Allora, io ho una situazione un po' particolare, nel senso che da piccolo mi ero fatto male a un braccio, mi è venuto, diciamo, una malformazione che non mi permette di svolgere tutte le attività quotidiane. Detto questo, perché praticamente io ho avuto poi, visto che ho dovuto lavorare più col destro che col sinistro, uno scivolamento in avanti della colonna vertebrale. E facendo sport, soprattutto la bicicletta, sono 3 mesi che praticamente mi è venuto un dolorino al polpaccio, sì. E volevo chiedere alla dottoressa se, andando da un osteopata attraverso manipolazioni, questo problema poteva, diciamo, aggravarsi oppure no. Grazie, grazie Emanuele. Dottoressa, prego. Tra l'altro io vorrei ricordare e vorrei parlare anche del metodo che lei ha ideato sui principi di Mézières, che è un fisioterapista francese, che ha osservato che nel corpo umano i muscoli sono legati tra loro, formano delle catene che possiamo immaginare con grossi elastici, sono 5 per la precisione, che ci schiacciano e ci deformano, provocando anche dolore e limitazione nei movimenti. Ma il metodo della dottoressa Bertelet si differenzia da quello di Mézières, c'è una sorta di superamento, di ampliamento, che funziona anche per il caso di Emanuele che ci ha chiamato da Massa Carrara, dottoressa? Sì, diciamo che la base del mio metodo è comunque il metodo Mézières dal punto di vista del lavoro sul corpo, cioè è sì, essenzialmente il metodo Mézières. La mia integrazione è più sull'aspetto emotivo, di lettura emozionale, certo, esattamente, del prendere in considerazione la persona come un tutt'uno inscindibile. Però per quanto riguarda il problema dell'ascoltatore, vorrei ricordare che è una limitazione di un movimento dell'arto superiore, che sia il gomito o il polso, ma il gomito è particolarmente importante, dà negli anni una compensazione nel resto del corpo, per cui è facile poi avere delle sciatiche, dei dolori agli arti inferiori e all'anca. Quindi diciamo che quello che riporta l'ascoltatore è molto chiaro dal punto di vista nostro come sequenza di avvenimenti. Bisogna riequilibrare l'insieme della posizione, cioè risalire all'alto, cioè quindi al problema del gomito, al problema delle spalle, e dare un equilibrio di tutta la posizione. Altrimenti, se ci rivolgiamo localmente solo al polpaccio, non si risolve nulla, perché è un sintomo, diciamo, è la punta di un iceberg. Ecco, l'iceberg è tutto quello che c'è stato in questi anni dopo la lesione del gomito che ha riportato da bambino. Perché, e questo si spiega anche sempre con la teoria dei muscoli e delle catene muscolari. Esattamente, sì. Perché tutto è interdipendente nel corpo, quindi una lesione da una parte comporta inevitabilmente delle compensazioni nel resto del corpo, che negli anni possono poi tradursi in una patologia. Noi, certo, dobbiamo, diciamo sempre che... Perché non siamo in equilibrio. Esattamente, sì. Ma c'è, ecco, il dolore per cui uno viene, ma dobbiamo scoprire perché è venuto, il dolore a monte che l'ha provocato. Il nostro amico ci ha detto che appunto ha avuto un impedimento nel movimento per un problema che ha avuto da ragazzino, ma noi tante volte non usiamo in modo armonico ed equilibrato la parte del nostro corpo e non ce ne rendiamo conto, no? Non sempre abbiamo la percezione di magari trattenere, di usare più un braccio che un altro, ci viene istintivo. Anche questa sorta di limitazione che noi non percepiamo, ma che invece è nei fatti, può portare alla lunga degli impedimenti, delle rigidità nei muscoli? Certo, sì, sì, qualsiasi asimmetria, anche, non so, un lavoro ripetitivo come quello di un movimento ripetitivo di una mano, comporta poi negli anni una compensazione che provoca degli assestamenti. Le faccio un esempio, ad esempio sì. Le sarte, chi lavora molto con le mani, con le forbici, che sono adesso o le sarte o anche i parrucchieri, che sembrano dei lavori apparentemente leggeri, negli anni provocano delle compensazioni e molto molto spesso si ha un'artrosi d'anca dopo un tot anni, che è relativa alla rigidità della persona. Quindi è molto molto importante continuare a equilibrare, ci vuole un livello di percezione del corpo che spesso non c'è. Noi usiamo il corpo, ma appunto abbiamo una scarsa capacità di ascoltarlo e di percepirlo. Ci vuole proprio un'educazione, che nella nostra cultura non c'è molto, perché ai bambini facciamo fare sport, non educazione all'ascolto, ad esempio. Però è una cosa che si può imparare nel tempo. Certo, assolutamente. Vero, dottoressa, certo, come lei insegna nel suo libro. Deborah. Andiamo ad Alessia da Firenze. Non stavo pensando ad una mia amica che proprio a Natale fa la radiologa in un ospedale e mi ha spiegato che ha un problema ad un muscolo del braccio per un utilizzo per molti anni della sonda, immagino, con cui fa, no, dottoressa? Per cui adesso ho avuto anche questo secondo flash stamattina, proprio riferendomi alle indicazioni che stava dando. Alessia da Firenze, benvenuta. Breaking news. Un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa in chiusura del giornale radio e riguarda l'attacco avvenuto a colpi d'arma da fuoco al giornale satirico francese Charlie Hebdo, quello che, lo ricorderete, qualche anno fa pubblicò delle vignette satiriche contro Maometto. È stato un attacco a colpi di Kalashnikov. Secondo alcune fonti, per il momento giornalistiche, si tratta di Le Parisienne, di un'altra emittente locale, ITLE. Le vittime sarebbero 10, se non 11, forse 5 i feriti. Naturalmente maggiori aggiornamenti appena li avremo e naturalmente in effetto giorno. Allora, noi abbiamo in linea Alessia, che esatto. È stata richiamata da Deborah, 800 24 00 24. Con Alessia proviamo ad ascoltare il nostro corpo. Alessia. Sì, buongiorno. Buongiorno. La ringrazio dello spazio. Chiamo per mio figlio, che ha 11 anni e mezzo. Io ho letto i libri della dottoressa e mi sono piaciuti molto per l'approccio così olistico che ha verso il corpo e guardare la sua interezza. E mio figlio è un bambino molto curioso, molto intelligente, molto sensibile, creativo, a volte magari forse un pochino rigido e un po' sopra le righe nelle sue esternazioni. Questo per quanto riguarda il suo aspetto emotivo e caratteriale. Il bambino è nato con una displasia alle anche, ha portato il tutore di Pavlik per i primi 5 mesi dalla nascita al quinto mese. Poi a livello di postura, questo ormai è una cosa che insomma succede abbastanza ripetutamente da un anno e mezzo a questa parte. Quando cammina tende a mandare il piede sinistro verso l'interno e a tenere la spalla destra più bassa di quella sinistra. L'ho fatto notare alla pediatra, che ha controllato la schiena e l'appoggio plantare, ha detto che era tutto nella norma e che il bambino doveva soltanto ricordarsi di tenere la spalla più alta quando camminava e il piede più diritto quando camminava. Ho provato a fargli fare anche degli esercizi, gioca in una scuola calcio e ci va volentieri. Ultimamente, anche dietro consiglio di un'amica, ho provato a fargli fare degli esercizi di estensione, tipo seduto sul letto con la gamba tesa, cercare di raggiungere la punta del piede per estendere i muscoli posteriori, e ha difficoltà a raggiungere la punta dei piedi, così come partendo dalla posizione retta e spostandosi in avanti. Alessia, mi scusi, quanti anni ha il suo bambino? Il bambino ha 11 anni. 11 anni, quindi un ragazzino. Sì, un ragazzino in crescita, sta facendo prima media, insomma c'è stato anche il passaggio dall'elementare alla media. Ma è un passaggio un po' impegnativo. Impegnativo, però insomma con ottimi risultati. E volevo solo sapere se appunto era il caso di farlo vedere da un posturologo, da un fisioterapista preparato col metodo per tele, e se la dottoressa poteva consigliare qualcuno o qualcuna su Firenze alla quale eventualmente rivolgersi. Grazie Alessia. Naturalmente grazie per delle indicazioni precise sul caso di Alessia, chiediamo ad Alessia di scriverci, la dottoressa Bertelè le risponderà. Ma dottoressa, Alessia ci dà lo spunto per parlare di quelle difficoltà di movimento o quella mancanza di armonia che spesso troviamo nei nostri ragazzini, che invece, no, si dice i bambini sono elastici, sono delle gomme, sì. Invece non è sempre così, a volte a creare il sospetto può essere il modo in cui il bambino cammina, oppure la posizione delle spalle, o anche una sorta di rigidità, come ci diceva Alessia, non, insomma, fa fatica a toccare la punta dei piedi. Allora, tutti questi segnali che cosa ci devono dire e qual è l'esperto, gli esami di riferimento, esatto, che ci possono aiutare ad inquadrare la situazione? E subito dopo, così non parlo più, le chiederei anche di darci delle indicazioni per imparare ad ascoltare il nostro corpo, ma soprattutto a fargli recuperare quell'armonia e quell'equilibrio che abbiamo capito dai suoi interventi è la base per, no, farlo vivere bene a lungo. Sì, allora, durante l'adolescenza si crea una situazione che è molto particolare, in cui le ossa crescono in un certo senso più rapidamente dei muscoli, e questo tanto più quanto più il muscolo del ragazzino è rigido, ed è proprio per questo che nella fase dell'adolescenza si ha una situazione di rigidità più accentuata, ad esempio questo fatto che i ragazzini non riescono a toccarsi la punta dei piedi, tanto più adesso che stanno molto tempo seduti, sdraiati, semisdraiati, molto tempo davanti al computer, sono molto molto rigidi i ragazzini. Ecco, allora in una fase così è importante non potenziare tanto i muscoli, ma fare un lavoro di elasticizzazione, cioè di fare in modo che il muscolo segua l'osso, altrimenti la compensazione più importante la si ha nella schiena, sì, quindi con la scoliosi o le cifosi. La scoliosi, ecco, quindi quali sono gli esercizi? Sono esercizi di allungamento, stretching? Ecco, sì, innanzitutto lo stretching, poi sì, limitare il potenziamento al minimo indispensabile se un ragazzino fa sport. Poi ad esempio noi facciamo fare ai nostri ragazzini, gli diamo un prestampato per sdraiarsi per terra tutti i giorni, 10-15 minuti, ascoltando la musica, cercando di rilassarsi. Poi l'acqua calda è un altro aiuto straordinario, quindi sì, docce calde, bagni caldi, e anche fare qualcosa che liberi, che sciolga il movimento, perché normalmente tutti, adulti, bambini, siamo obbligati a fare dei movimenti costanti, invece ogni tanto bisogna proprio sciogliere il movimento, quindi ballare liberamente, cantare, camminare tantissimo. Ecco, poi io consiglio sempre per gli adulti anche fare movimenti tipo il tai chi, cioè fare cose che sciolgano, ma ballare è un aiuto grande che si può fare a qualsiasi età, è vero, anche da soli. Anche da soli. 800 24 00 24, andiamo dove? Andiamo da Lucia da Brindisi. Benvenuta. Che, esatto, poi in realtà ci sta dando, tra virgolette, la ricetta che vedo che ci suggeriscono anche molti ascoltatori attraverso l'SMS. Lucia, benvenuta. Buon anno. Sì, buongiorno. Buongiorno, auguri. Io sono una vostra assidua ad ascoltatrice, e quindi dopo avervi fatti i complimenti non potevo fare a meno di chiamarvi per dirvi, brava, che io ho diverse rigidità fisiche, oltre degli acciacchi tipo ernie cervicali, addirittura una protesi all'anca. Però sto risolvendo il tutto grazie alla pratica dello yoga, sì, che mi sta insegnando a respirare, a buttar fuori e ad ascoltare me stessa oltre che il mio corpo. Questa al momento è la ricetta, che è una grande ricetta per me e che quindi volevo condividere con voi. Certo, una ricetta che ha una saggezza millenaria. Ma Lucia, lei dopo quanto tempo ha visto i risultati? Ho visto i risultati. Perché bisogna avere anche un po' il tempo, la pazienza di aspettare che, no, le cose facciano. All'inizio sì, non sono arrivati immediatamente, però abbastanza presto. Dopo un mese della pratica dello yoga, due volte a settimana per un'ora e mezza cada uno, io ho cominciato ad avvertire un miglioramento sì, a livello fisico, ma anche molto a livello mentale. Io ogni volta che pratico lo yoga, prima di praticare lo yoga, se sono molto stanca, molto stressata, magari prima di approcciarmi mi dico ma forse non è il caso, sono molto stanca, ne faccio a meno. Invece no, è come una medicina. Quando torno a casa, anche se sera molto tardi, sono ricaricata mentalmente e fisicamente, e riesco anche a dormire molto bene, cosa che poi ormai, nonostante gli acciacchi e le rigidità, tante volte avevo anche difficoltà ad addormentarmi. Dottoressa Bertelè, intanto ringraziamo Lucia, ma vorrei un suo commento racconto di Lucia che pratica yoga, lei aveva suggerito il tai chi, ma soprattutto sottolinea un aspetto che è un po' il cuore di questa seconda parte di trasmissione, l'armonia tra corpo e mente, perché c'è un modo di essere e c'è un modo di stare e il nostro vissuto condiziona, come abbiamo detto subito in apertura, le nostre articolazioni, i nostri muscoli che si tendono a volte anche senza che noi ce ne accorgiamo. Sì, lo yoga naturalmente è veramente una pratica antichissima e, come diceva giustamente l'ascoltatrice, è una pratica molto più sul mentale, energetica, diciamo, e il corpo segue. È molto giusto quello che diceva l'ascoltatrice, che effettivamente riequilibrando tutto l'aspetto mentale, energetico, anche il corpo si rilassa, perché come movimenti per noi occidentali non sempre lo yoga è indicato per alcuni tipi di problematiche, però dal punto di vista invece più, come diceva lei, mentale, di rilassamento, è veramente una delle discipline più consigliabili. Lei ha consigliato il tai chi, che cosa ha di più il tai chi rispetto allo yoga? Il tai chi dal punto di vista dell'uso delle articolazioni è meno violento. Sì, ad esempio per le anche, per la cerniera lombosacrale è più indicato il tai chi. Il tai chi dà poi ha proprio come obiettivo l'elasticità e l'armonizzazione destra-sinistra, alto-basso, ci sono tutte le corrispondenze che poi sono quelle dei meridiani, ecco, è di fatto una ginnastica terapeutica. Se noi vediamo i cinesi di 90 anni, ci sono i grandi maestri che sono veramente delle canne ancora, un'elasticità fantastica. Echo. Speriamo di farci canna. Solo una cosa sull'elasticità che è molto importante, quella dell'alimentazione. Sì. Da non dimenticare, perché i nostri muscoli sono fatti di quello che noi introduciamo, quindi se noi introduciamo molte proteine animali, soprattutto di carne rossa, i nostri muscoli diventano più rigidi. Penso che l'atleta più fantastico da vedere è Djokovic, che è il grande campione di tennis, che è veramente un gatto, e non a caso lui ha sottolineato l'importanza dell'alimentazione e del togliere il glutine per essere più elastici. È un grande maestro proprio, penso. Quindi lui ha tolto il glutine. Noi abbiamo fatto tantissime puntate sull'intolleranza al glutine, che è un'intolleranza permanente, la sensibilità al glutine. Ecco, se potete riascoltare naturalmente nel nostro archivio. Valeria ci scrive che ha avuto molti benefici con l'acqua gym. Brava, dottoressa Bertelè. Va bene, ecco, va bene anche l'acqua gym. Ecco. Allora, noi dobbiamo salutarci, dottoressa Bertelè deve tornare a trovarci, tante le telefonate che sono arrivate, anche le richieste di aiuto e dei consigli che noi gliele gireremo naturalmente. Va bene. Grazie alla dottoressa. Grazie, ascoltate molte. Il vostro corpo. Anche a lei, ascoltate il vostro corpo. E noi intanto, ascoltate noi anche domani alle 11. Buona giornata.